Purtroppo però si tratta, a sentire la base, di un brutto passo falso. I leghisti si sentono presi in giro, come ci conferma Fabrizio Pirina, coordinatore della Lega Nord in Sardegna. Non niente, come stava andando, il governo non andava più bene, ecco, e quindi è giusto aver tirato un po' il remo in barca, perché poi non è da noi Lega andare davanti a tutto il popolo italiano e sparare parole. Noi siamo abituati ai fatti, ecco, lo dimostra chi ha lavorato singolarmente anche al governo, come il nostro ministro Maroni. Stavamo sempre pensando a cercare di dare quella spinta all'Italia, ecco, non per salvare Berlusconi. Tutto questo è comunque lo dice la Lega, ecco. Ma lei ha la sua base, lei a Olbia o comunque in Sardegna, ai suoi elettori leghisti, che sì. Cosa diceva quando le dicevano molliamo Berlusconi, torniamo a fare la politica del territorio, la secessione, eccetera? Che cosa rispondeva? Cosa rispondevo? Noi abbiamo una linea e quindi dovevamo stare anche in quella linea, anche se vedevamo che da un bel po' di tempo io in primis dicevo, anche parlando con i miei superiori, che bisognava un attimo mollarli, ecco, perché stavamo facendo delle brutte figure per colpa loro. I figli del grande popolo del nord si troveranno e faranno ritornare l'affetto nella storia, perché la Lega è figlia del grande popolo del nord. Non è un'altra cosa, quella roba lì la Lega nacque per l'indipendenza del grande popolo del nord, chiaro? E ora, in corso una guerra, per fare l'indipendenza ancora battersi. E guarda caso, è una fortuna, la Lega, il nord, per la prima volta, ha una classe politica, mai c'era visto, mai. 2500 anni, mai. Sono passati tanti anni da quel 6 maggio 1990, quando l'Italia intera, ma soprattutto politica, fece i conti con quello che fu definito voto di protesta. In Lombardia, allora, la Lega arrivò ad ottenere il 20% dei consensi. Sono passati tanti anni da allora. Oggi la base è matura, non funziona più, a sentire che amministra il territorio la buttada del secessionismo. Il progetto deve essere serio, strutturato e realizzabile. Sentiamo ancora il sindaco di San Giorgio in Bosco. Però posso dirle una cosa, la gente vede solo i lati, ci dicono avete fatto poco al governo. Sì, probabilmente è anche vero, però abbiamo fatto molto per non far fare. Perché ad esempio la legge dei 10 anni delle pensioni, ha visto, siamo usciti dal governo, c'è già la proposta di dare la cittadinanza italiana a tutti i nati in Italia. E insomma, come vede, gli unici che si pongono a baluardo delle nostre tradizioni, dell'essere veneti italiani, sono la Lega, insomma, perché il PDL ha dei problemi interni, sicuramente. In tanti anni non si è creata una coalizione di governo, nel senso che la Lega è rimasta la Lega e il PDL è rimasto il PDL. Ma è molto semplice, dottoressa Carpinelli, il motivo. Il motivo è che Berlusconi il 70% dei suoi voti li prende da Reggio Emilia in giù, no? Mentre la Lega è un partito localistico con Piemonte, Lombardia e Veneto, ed è difficile poi mischiare il tutto, capisce? Non è facile obiettivamente, però siamo andati d'accordo per 3 anni e mezzo, siamo stati leali, siamo partiti in 59 in Parlamento e 59 sono, nessuno ha cambiato casacca. Avete ascoltato il reportage di Cristina Carpinelli sulla Lega di opposizione, ci sentiamo domani, Daniele Biacchessi vi saluta qui, domani 6:30, Radio 24.